FM。 Con Roadhouse Blues, tra l'altro faccio immediatamente un saluto e un ringraziamento al Joker del database che mi ha mandato uno splendido articolo di Mojo completamente in come si chiama, in formato PDF, esatto, quindi grazie mille e partiamo con il Tour de Force a parlare di un po' di concerti. Yeah. Allora, allora partiamo dal Jamba Live di Rapallo, visto che il prima Brutus ne stava accennando, ha aperto il discorso, quindi ricordiamo che al Jamba Live di Rapallo il 23 di maggio suoneranno gli Obo, più gli Obo per intenderci sono gli ex The Glen, giusto per i più aficionados della musica underground italiana, Obo più Ricochet, e a seguire il DJ set di Edo Rossi. Vi aspetto lì, Rock in Field Festival, 26 luglio all'Idroscalo di Milano con Epica, Halloween, Threshold, Vision Divine, Avantasia, Biomechanical. Passiamo al Gods of Metal dal 27 al 29 giugno all'Arena Parco Nord di Bologna, 27 giugno con Iron Maiden, Avenged Sevenfold, Rose Tattoo, Apocalyptica, Airborne, Lauren Harris, che praticamente è la figlia del bassista degli Iron Maiden, e King Crow. Poi il 28 di giugno Slayer, Carcass, Meshuggah, Testament e At The Gates. Il 28 di giugno Judas Priest, Ice Earth, Inge Malmsteen, Morbid Angel, Obituary, Enslaved, Infernal Poetry e Nightmare. I Queen più Paul Rogers del nostro amico Brian May il 26 di settembre saranno a Roma al Palla Lottomatica, mentre il 28 di settembre a Milano al Dutch Forum. Non mancate, con un bello striscione con scritto Rock Family Thanks Brian. Metallica il 22 di luglio a Bologna all'Arena Parco Nord. I Bad Religion saranno il 16 di giugno a Milano al Rolling Stone. Rage Against the Machine, unica data italiana, 14 giugno a Modena allo Stadio Braglia. In Negramaro, insieme a, in realtà gli faranno da apertura fratelli Hoosier, Fashion e Fink, il 31 di maggio allo Stadio San Siro di Milano. Big John Bates and Voodoo Dolls saranno questa sera al Legend 54 di Milano. Gli After Hours il 23 di maggio a Milano al Palasharp. Glenn Hughes sarà il 26 di maggio a Bologna al Teatro Fanini, il 27 a Milano al Music Drome. I Whitesnake insieme agli Europe e i Tiger Tales saranno il 27 di luglio a Piazzola sul Brenta in provincia di Padova, Villa Contarini. Vediamo altre segnalazioni con quelle dei Kiss. Allora, la serata del 13 di maggio pare sia stata eccezionale, speriamo che la band di Jane Simmons e soci replichi il 24 di giugno a Milano al Dutch Forum. Rage Against You, tributo ai Rage Against the Machine, saranno il 16 di maggio al Flare Up Pub di Sori in provincia di Genova, il 17 al Music Street Club di Lugnano di Vico Pisano in provincia di Pisa. Vediamo altre segnalazioni come quelle che riguardano per esempio i Meganoidi, che il 15 di maggio saranno a Milano al Politecnico. Jonathan Davis dei Korn con il suo tour solista sarà l'11 di giugno a Corte Maggiore in provincia di Piacenza al Fillmore. Gli R.E.M. saranno il 20 di luglio a Perugia, il 21 a Verona, il 23 a Napoli, il 24 a Codroipo in provincia di Udine a Villa Manin, il 26 a Milano all'Arena Civica. Vediamo altre segnalazioni come quelle di Ben Harper il 24 luglio a Verona, il 25 ad Arezzo, il 26 a Roma. Chiudiamo con il Rock of Ages Festival. Stavo quasi dimenticando la Rock FM Stars Band, ma ve la dico dopo. Dicevo, Rock of Ages Festival, che sarà il 13 settembre a Milano con Twisted Sister, Extreme e Got Hard. Il Tour de Force torna domani intorno alle 10.30 insieme a quel bellomone di Marco Garavelli. Rock FM. Step inside, walk this way, you and me, babe. Hey, hey! Living like a lover with a radar phone, looking like a tramp, like a video vamp. Demolition woman, can I be your man? Resonant and desolate, like passion did it late. Television lover, baby, cool night. Sometime, anytime, sugar me sweet. Little miss the innocent, it's so good. cosa. Adoro questo pezzo. Mamma. Allora, il riff vagamente Jimi Hendrix. Il resto bello, potente e massiccio. Glenn Hughes, ladies and gentlemen, con Dave Navarro alla chitarra e Chad Smith alla batteria. Scusalo, Peccato che questo disco credo che non abbia avuto una grandissima diffusione, però mamma mia, eccezionale. Soul Mover, questa era la title track del disco. Glenn Hughes, che come detto sarà il 26 e il 27 in Italia, e insomma dovrebbe anche, sì, lo so, speriamo bene, dovrebbe venire a farci un salutino, speriamo bene. Allora, dunque, rispondo a un po' di sms, a un po' di email. Allora, l'email, ricordo, edo@rockfamily.it, il numero sms 335-100-7777. Prima di tutto faccio una errata corrige sul concerto di Big John Bates and the Voodoo Dolls, che si terrà a Legend 54. Ho detto una vaccata prima dicendo che era il 15 di maggio, infatti si terrà domenica 18 maggio, quindi non sbagliatevi, non andateci questa sera, è il 18 di maggio a Legend 54 di Milano, Big John Bates and the Voodoo Dolls. Poi c'è chi mi scrive: ma a giugno non vengono i Queensryche all'Alcatraz? Dunque King, grazie King. Sì, io credo che il 7 di giugno siano all'Alcatraz. Poi adesso non ho avuto ulteriori conferme, però anch'io ero di questa cosa qua. Non so se però poi c'è stato qualche movimento strano per il quale abbiano spostato così questo tipo, però al momento mi risulta che appunto 7 giugno Queensryche Alcatraz Milano. Poi, allora, un saluto ad Ale che dice: Edo, ma non è che dopo il 31 abbandoni noi toscani? Le serate qui le continuerai a fare, vero? Ma, cara Ale, ti dico subito che il 28 di giugno sarò a mettere i dischi all'area Gens, quindi già comincia a essere una cosa buona, insomma. E poi vabbè, poi vedremo, insomma, poi si improvvisa, insomma, poi chi lo sa, magari riesco a fare un giro anche con gli Acamporas, che cambieranno nome da qui ad allora, quindi vedremo un po'. Poi bene, un saluto a Pei da Genova che dice: con chi suonano i Metallica a luglio? Ho sentito dire coi Down, però insomma staremo a vedere se è confermata la cosa. Poi Luigi dice sì, ok. Luigi dice: facciamo così, voi registrate le puntate o le notti e le mettete su CD e poi le vendete al posto delle magliette. Beh, non si può fare, Luigi, mi dispiace, non lo possiamo fare. Però magari non escluso qualche estratto qui e là. In realtà l'ideale è che, ora non voglio come dire, fare dell'istigazione, dell'inquere, però è meglio che vi facciate voi le vostre cassettine o le vostre registrazioncine e ve le gestiate come meglio preferite, perché ovviamente noi non possiamo non potremo più utilizzare il materiale di Rock FM in realtà dal primo di luglio in poi, ma comunque smetteremo di utilizzarlo già dal primo di giugno. Poi un saluto a Minty che dice: mi chiedevo se fosse troppo tardi per un sms, ma hai messo il mio pezzo preferito dei Def Leppard, come faccio a non ringraziarti? Ma grandissima Minty, grazie, mi fa veramente piacere. Da Forlì poi Tasmin78 da Viareggio mi dice: Edo, ma se il 24 o il 25 passassi da Sarzana a provare la mia chitarra? Caro Tasmin, dipende dalla tua chitarra, voglio dire. No, in realtà, boh, non lo so, perché il 24 suono con la Rock FM Stars Band giù a Gello, quindi in realtà passerei da Sarzana al 25, però ti assicuro che dopo, insomma, un po' di cose in giro, il 25 a domenica è l'unico giorno nel quale faccio cambio valigia, una lavatrice e poi si riparte, quindi non so se ho molto tempo, però eventualmente innanzitutto comincia a dirmi che chitarra vuoi che io provi, poi ne parliamo. Sì, lo so, sono un fottuto stronzo. Poi un saluto anche a Rutto che dice: bella Edo, sei un poeta, mi mancherà la tua ignoranza, rock on. E tra l'altro c'era chi prima scriveva che insomma, per non pensare alla chiusura di Rock FM ci voleva vino e potta, e Alba scrive e dice: guarda, io sul vino non ho nessun problema, è la potta che mi mette in difficoltà. Alba, ma se ne sei provvista, che fortuna hai, non te la devi andare a cercare in giro, voglio dire, meglio di così. Rolling Stone, ladies and gentlemen. Mamma mia, qualcuno ha visto Shine Light? Mi hanno detto che è bello, che suona bene, che si può vedere al cinema. Ora ci provo. Questa è Star Me Up, Rolling Stones. Yeah. Up, che tra l'altro nelle intenzioni di Keith Richard su Start Me Up c'era di fare una canzone reggaeggiante, poi insomma alla fine l'arrangiamento finale non è stato assolutamente così, però insomma lui ha detto che sotto sotto quando la sente gli è capitato di riascoltare dei vecchi nastri dove era un po' più reggaeggiante Start Me Up e insomma lui continua a immaginarsela così. Poi d'altra parte insomma l'immaginazione a Keith Richard penso non manchi proprio. Allora Rolling Stone riascoltati con Start Me Up. Allora subito saluto Andrea che mi dice cosa ne ho fatto della registrazione della nostra presenza, del nostro intervento a Rock TV. Allora ti dico che innanzitutto l'ho visto, me lo sono visto, rivisto eccetera, fatto vedere in casa, cioè. Poi probabilmente, ora non so se riusciremo già a metterlo, probabilmente ce la faremo eccetera, però prima di tra virgolette bruciare le tappe stanno realizzando diversi filmmaker, nostri amici e nostri estimatori, oltre che insomma persone meravigliose, stanno realizzando dei documentari in questi giorni su Rock FM e non è escluso che magari all'interno di uno di questi documentari verrà utilizzata anche la documentazione video e audio che avete fornito voi. Quindi torno a dire, se siete dell'idea, naturalmente fateci avere del materiale, se avete registrato qualcosa o magari condividetelo su YouTube o cose di questo tipo, perché potrebbe essere essenziale. Allora, rispondo ad altri SMS, un saluto a Fregenhaus, un saluto a Franci da Senago che dice: ma metterete in palio anche biglietti per qualche concerto oltre alla chiusura di Rock FM? Non ne ho la più pallida idea. Forse qualcuno dei concerti che abbiamo già in palio, adesso non lo so, abbi pazienza Franci, non posso esserti utile. Poi un saluto anche ad Andre che dice: ma io è 2 mesi che vi registro con le cassette, non so più dove metterle. Caro Andre, grazie mille. Un saluto a Chiara e a Matt, entrambi mi parlano di Shine a Light, il film dei Rolling Stone. Allora Chiara mi dice: molto bello, se ti piacciono molto i Rolling Stone, da vedere solo al cinema perché è troppo forte, è quasi meglio di un concerto. Grazie Chiara, allora mi stai convincendo. Matt invece dice: figata Shine a Light, l'ho visto al cinema con mio padre, te lo consiglio, ma non lo trovi più. Ah, accidenti, io ho visto in un cinema la settimana scorsa a Milano, vicino a Corso Magenta, che lo trasmettevano ancora, ho creduto che magari fosse ancora lì per qualche giorno. Poi Tasmin invece mi dice: chitarra folk al Meet Internazionale di chitarra acustica di Liuteria. Ma trovi anche elettrica? Caro Tasmin, gnam gnam. C'è proprio un meeting internazionale di chitarre acustiche di Liuteria a Sarzana? Roba che vado a casa con una chitarra acustica a cassa jumbo da 3.000 euro della quale non riuscirò più a fare a meno? Vabbè dai, allora passo da Sarzana, via. Mai convinto, ci vediamo il 25, anzi mandami un'email a edo@rockfamily.it, ti chiedo per piacere se mi dai tutte le coordinate del festival, così magari passo. Già. Metallica che usciranno a settembre col disco nuovo, così è stato annunciato, al quale farà seguito una lunga tournée, così hanno detto i Metallica a uno show di beneficenza che hanno tenuto la scorsa notte a Los Angeles. Le andiamo a riascoltare con la canzone con la quale hanno aperto questo concerto, ossia The Ecstasy of God, Metallica su Rock FM. Metallica. Questa era The Ecstasy of Gold. Altro mi dispiace, ma oggi Giulio Caperdoni non andrà in onda. No, sto scherzando. Scappo, ci sentiamo domani dalle 17, sempre su Rock FM. Grazie a tutti, vi ricordo il mio blog edorossi.blogspot.com. Buona serata.